Con l'unità di strada quello che facciamo è cercare di costruire dei rapporti e far sentire meno emarginate le persone che vivono per strada. Diciamo che il maggior numero di senza fissa dimora si concentra in stazione, la stazione dei treni. È assodato che le stazioni, diciamo che sono dei luoghi, tra virgolette, di aggregazione per loro, in quanto tante volte si sentono sicuri perché sono zone di passaggio, non sono isolati e c'è sempre bene o male qualcuno nella stazione, quindi diciamo hanno meno paura. È anche vero che in stazione troviamo varie tipologie di senza fissa dimora, quindi dal tossicodipendente a chi ha dipendenza da alcol alla persona che semplicemente ha perso il lavoro. Bisogna anche accettare alcune cose, nel senso che tante volte vai a casa e non è semplice dire ma lei ha più o meno la mia età e dorme in stazione, non posso fare niente. Però bisogna prenderne atto e accettarlo, perché fondamentalmente poi alcune scelte, cioè, vanno poi anche rispettate.